Guarda l'ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco di Paul Nponcis dal titolo Shooting Stars and Marshmallow. Come si chiamava questa canzone? Mr. Driver. Dopo il disco, quali impegni attendono la vostra band per il futuro? Ho sentito parlare di date anche all'estero. Sì, beh, fine settimana finiamo il video del singolo, Myself, stiamo Bene. Preparando il live. Dal vivo faremo le canzoni chiaramente del disco più qualche inedito. Stiamo definendo tutti i contatti relativi e speriamo di organizzare il tour al più presto. Effettivamente sì, dovremo andare anche all'estero. Bene, dai. Ora ascoltiamo quale canzone. Hate and Love. Look here what I'm looking for. Oh, here on high. I never spent so many days, so many nights. Try to catch your breath. Try to break the spell. You say, never, never let this rain go inside yourself. Mess you up, mess you up. Never, never let this rain go inside yourself. Mess you up. We kept our legs Il tempo scorre e noi siamo in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni. Scrivete all'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio in streaming attraverso i vari player. Un grazie ai Pull No Punches per la partecipazione, buona fortuna per il vostro album. E a questo punto la parola a voi per i contatti web ed email per info sul vostro disco e un calendario di live futuri. Allora, grazie a te Jean-Luc e a Radio RCS. Il 19 novembre uscirà il nostro disco ufficialmente. Potete trovarci al sito www.pnprock.com. Lì potete trovare in anteprima alcuni pezzi del nostro nuovo album. Live per il momento? Live per il momento non ne vogliamo annunciare, perché ci sono delle cose molto interessanti, ma vogliamo aspettare ancora un po'. Uscirà ovviamente il 19 anche il nostro nuovo video, che verrà girato nei prossimi giorni, con il singolo appunto Myself. Brano per chiudere questa puntata? Il numero 10, quello che chiude, che si chiama Soul to Squeeze. Jean-Luc e Bruno Ponces vi salutano, noi ci risentiamo come sempre venerdì prossimo, quando avremo in studio un ospite davvero speciale. Infatti sarà con noi il cantautore rock veronese Ruben, che presenterà il nuovo disco Il Rogo della Vespa. Ciao!